Ciao, io e sta scoia. Anzi, a morire di freddo a Milano. Rispondi che deve essere libanese. Senti un po' che dice. Ah, oh, libanese, No, qui ci stiamo a capire niente. Er Midder, er Dow Jones, er Nascat. Ma come cazzo parlano sti milanesi? Boni, non vi fate riconoscere. La borsa è aperta da un'ora e voi ancora non avete venduto niente. Mi spiegate che state a fare? Spegnete sti titoli. Da Roma dicono che siete una mossa. Ma non è facile attirare gli investitori. Ho capito, va. Metti sti titoli a 13 euro a gramma. Poi vorrei stare in corchetta a vendere fumo. E poi il mercato è depresso in questo periodo. Sono tutti uguali, Vabbè, metteci sta plusvalenza. Ecco, dai, via. Ma che significa? Significa che per ogni azione venduta noi regaliamo un grammo di coca. Ma è illegale. Andiamo. L'economia sarò lenta. Ma se chiamai coglioni sono spada. Mo che famo? Che famo? Tocca fa da soli. Dai, lasciamo questa offerta. 40 azioni, 40 grammi. Ma vedi come volano sti titoli in mortacci tua. Bravi, vi state a muovere bene. Adesso comprate. Compra. E che devo? E che cazzo ne so, compra. Come a casa no, fammi il gioco nostro. Allora, compra sulle azioni varie. Dai. La porca mignotta, sono uscite azioni dispari. Dai, le fanno con me. Oh. Io starei. Mortacci, tu amo sballato, lei vedeva che questo è il giro mio, tu. Allora, com'è andato in borsa? Abbiamo giocato pesante, Libani. Su botte CCT? Più che altro abbiamo cercato di diversificare il portafoglio. Coi derivati? No, chi cavalli. Ma come chi cavalli? Io ho detto da andare a borsa di Milano, mica è ippodromo di capannelle. Ma almeno qualche titolo l'avete preso. Tutti questi. Ma che cazzo sono sti titoli? Questi sono tossici, non valgono un cazzo e portano solo un debito. Non avrete comprato mica titoli grechi. Oh, allora, come sono sti titoli? Come sono? Come sono? Sono grechi. E mo sono cazzo. Io la faccio molto breve perché già l'abbiamo fatta lunga. Quando vuoi. Ah, io. Oh, no, prendi questo. Allora, citazione dei Grechi, ma c'era anche una grande citazione di Mario Brega. Nel film Borotalco, quando parlava delle olive a Verdone, che era il suo futuro genero, che gli faceva mangiare le olive e gliele cacciava giù in gola e dice: so greche, e Verdone schifatissimo se le doveva mangiare. Comunque, a prescindere, allora abbiamo trovato questo titolo di debitocrazia, che è ovviamente un ossimoro, un paradosso, perché in tutti questi incontri che noi abbiamo avuto abbiamo detto che il debito era un modo per costringere, abbiamo parlato di Lazzarato, di tanti altri, di come il debito era fondamentalmente la pietra al collo che il potere forte metteva al collo di quelli che poi non potevano permettersi, se non per partecipare a questo mondo dei consumi, non potevano permettersi che il debito. Nella realtà stiamo scoprendo che tutto quello di cui abbiamo parlato è stato superato alla grandissima da quello che sta succedendo oggi, dove il debito diventa un modo per governare il mondo. Ecco perché debitocrazia. quello che sta succedendo, noi parliamo sempre degli Stati Uniti perché forse è il paese in cui le cose avvengono prima, sia quelle belle molto meno recentemente e sempre più quelle brutte. E quello che sta succedendo è sostanzialmente che il paese più indebitato al mondo sta diventando un... lo è sempre stato, ma sta utilizzando il debito come una delle armi con le quali costringere il mondo a fare quello che gli Stati Uniti vogliono. E le dimensioni ormai, uno dei sottotitoli è 50 sfumature di rosso, perché siccome è rosso il colore del debito, ci sono tanti modi che gli Stati Uniti hanno trovato per indebitarsi, sia a livello pubblico che a livello privato. Abbiamo anche parlato nelle puntate precedenti di come tutto quello che sembrava una serie, una concatenazione di avvenimenti nella separati e indipendenti tra di loro, nella realtà invece facessero parte di una catena molto ben studiata, molto ben oliata, e che fosse parte di un progetto che è partito probabilmente quasi 50 anni fa. Quindi siamo arrivati in questa situazione non per caso, perché si è costruito da parte di quelli che oggi detengono il potere, si è costruito un percorso. È un percorso che è stato molto ben concepito dal loro punto di vista per creare quello che fondamentalmente è, come l'ha definito un mio amico, il passaggio che ci fu a Roma dalla Repubblica all'Impero. E in sostanza in America dicono non abbiamo re, ma in questo caso loro credo che la fase del re l'abbiano abbondantemente saltata e siano finiti direttamente a quella dell'imperatore. Nel momento in cui quello che noi stiamo vedendo è come davanti all'impossibilità per gli Stati Uniti di ripagare il debito contratto, che è gigantesco, si sta ricorrendo a tutta una serie di misure che portano non più a una discussione di tipo democratico con diritti e doveri, ma a continue prove di forza, sia esterne sia interne. Vado a spiegarmi meglio. Nel momento in cui la Corte Suprema è nelle mani della destra conservatrice, nel momento in cui io cerco di arrivare a poter controllare la vita dei singoli stati, quindi attraverso non solo le corti supreme locali, stato per stato, ma anche attraverso l'intervento, diciamo, pretestuoso di truppe paramilitari, richiamandosi a una legge che si chiama Insurrection Act, che è vecchia di 200 anni, si comincia a configurare un sistema che non ha più pesi e contrappesi, ma un sistema che sta andando in un'unica direzione. Io non ho più la possibilità di ripagare il mio debito, quindi non posso più agire in un modo di tipo dialettico, interattivo, democratico, lo devo fare attraverso l'esercizio della forza. E questo è quello che sta avvenendo oggi. C'è un ragionamento geopolitico militare molto evidente, molto complesso, però di cui vediamo lo sviluppo ogni giorno che apriamo il giornale, ma allo stesso tempo una delle ragioni che muovono tutto questo scacchiere è il fatto che questo debito irripagabile deve essere in qualche modo il motore, o è il motore che spinge a dover utilizzare altri metodi perché la superpotenza americana riesca a sopravvivere e a continuare a dominare il mondo. Uno dei sottotitoli che abbiamo usato è la moneta di riserva, la materia prima di riserva non è più l'oro, ma è l'acciaio delle navi e l'alluminio degli aerei, perché abbiamo parlato tempo fa di come nel 1971 Nixon abbia provocato lo sganciamento del valore del dollaro dal valore dell'oro, e che quindi a un certo momento la moneta non aveva più un riferimento a una quantità prefissata, a un prezzo prefissato di oro, ma a un certo punto quello che il dollaro rappresentava era sostanzialmente una prova di fiducia che il mondo esercitava nei confronti degli Stati Uniti. Quindi quello che loro chiamano moneta fiduciaria, perché non aveva più un legame, un vincolo statutario con l'oro. Quindi quello che sta succedendo oggi è molto più complesso, molto più, va al di là di tutto quello che noi ci siamo detti da quando ci vediamo. Noi mi sembra che abbiamo svolto un compitino o una serie di compitini, ma oggi sicuramente siamo più in grado di capire rispetto a prima più o meno le variabili che sono in gioco, ma credo che l'accelerazione di questi ultimi pochi mesi superi di gran lunga qualsiasi tipo di proiezione che potesse venire da quello che di cui noi abbiamo discusso. Siamo entrati in una fase che, visto che gli americani hanno sempre nella testa il paragone con Roma, torno a dire, il ragionamento è esattamente questo. Dario Fabri se la inventerebbe in un altro modo, però c'è sicuramente un momento nel quale gli Stati Uniti stanno cambiando o hanno completamente cambiato strategia, e la strategia che loro stanno mettendo in atto oggi è una strategia molto rischiosa ed è una strategia dove il vincitore prende tutto e colui che perde perde tutto. Maurizio ci ha preparato diciamo in modo che vorremmo essere che fosse interattivo un po' una quantificazione di quello che vi sto dicendo. I numeri sono impressionanti, vado a braccio, il debito totale del mondo è 300 trilioni di dollari, il PIL mondiale è 100 trilioni di dollari, quindi il totale del debito è tre volte il PIL, quindi parliamo di tutti i debiti che non verranno mai ripagati. Nel momento in cui devi andare a chiedere la restituzione dei tuoi soldi a uno che ti tira i missili, le bombe da una parte all'altra del mondo, evidentemente hai più problemi che chiederli alla Grecia, come è successo nel 2015. Se andiamo a vedere, Maurizio, correggimi se sbaglio, il deficit annuale degli Stati Uniti è intorno al 10%? 8,7, quello ufficiale, quello reale oltre il 10? Se tieni veramente conto di tutto quello che ci... Sì, siamo intorno al 9,70. No. Ecco, diciamo siamo intorno al 10%. La Grecia è saltata, o perlomeno è stata fatta saltare, nel momento in cui il deficit della Grecia annuale era il 12%. Quindi non siamo... Certo che il deficit della Grecia rispetto al PIL, eccetera, era una cosa così. Oggi l'America, solo per pagare gli interessi sul debito, spende un trilione all'anno, per mantenere le sue forze armate spende un trilione all'anno e ogni anno deve rifinanziare titoli di Stato per 9 milioni, più o meno. Quindi ogni anno 9 trilioni. 9 trilioni, quindi se facciamo la somma sono 10, mal contati sono 10 trilioni di dollari che vanno rifinanziati e finanziati ogni anno. E quello che sta succedendo è che la gente, cioè i paesi, le nazioni, i gruppi di paesi, questo finanziamento agli americani lo fanno sempre meno e sempre più malvolentieri. E adesso passo la parola pregando Maurizio di rimanere meno tecnico possibile. Penso di cavarmela. No, ma meglio. Dici? Un trilione è metà del PIL italiano. Devi rapportarlo al PIL americano. Sì, perché sennò non andiamo al microfono. Sì. Ok, forse si vede. Allora, quello che vorrei fare stasera, visto che abbiamo sempre parlato di questi problemi, però non abbiamo mai quantificato come è messo veramente il sistema americano. Abbiamo sempre parlato di problemi di debito, debito pubblico, abbiamo parlato sempre di situazioni critiche, ma non abbiamo mai inserito in un contesto molto chiaro e lineare come mai siamo arrivati qui, perché siamo qui e qual è la dimensione del problema. Io queste sono cose che tratto regolarmente in convegni di economia con addetti ai lavori, però sono anche temi che tratto all'università, per cui per studenti che fanno il master di economia. Allora, qui abbiamo dei numeri e delle cose abbastanza tecniche, però non vi dovete spaventare perché le renderò il più possibile comprensibili a gente che non è addetta ai lavori. Allora, il punto chiave è che noi dobbiamo, per inquadrare la situazione, partire dal 2008. Nella realtà dovremmo partire dal 2001, ma poi diventa troppo lunga la cosa, no? Come siamo arrivati alla crisi del 2008? Molto semplice, questi sono, in questa slide, voi vedete i numeri di credito speculativo, quindi non le obbligazioni AAA per intenderci, no? La finanza speculativa americana, quella che era concentrata nei subprime, i famosi subprime di cui avete sentito parlare nel 2008, che dimensione aveva? Allora, nel ciclo speculativo del credito, i cicli del credito sono cicli che finiscono con il botto, se sostanzialmente, abbiamo raggiunto un totale di rapporto di debito speculativo in circolazione, quindi qui non c'è il debito pubblico, capite? Perché il debito pubblico è l'ultimo dei problemi. È l'ultimo, ma proprio l'ultimo. I problemi non arrivano dal debito pubblico, arrivano sempre prima da altre cose. Arrivano dal debito privato che il privato non può pagare, dal debito di un'azienda che l'azienda non può pagare. Allora prima falliscono i privati, poi falliscono le aziende e poi alla fine arriva anche il fallimento di un paese, no? Però all'inizio i problemi arrivano dal debito che non si può pagare ed è quasi sempre debito privato. Debito privato ha diverse qualità, cioè il debito privato più sicuro, meno sicuro, e noi siamo sempre molto attenti nel settore finanziario a cercare di capire la componente speculativa, cioè un sistema quanto debito speculativo, cioè pericoloso, a rischio di insolvenza, immette in circolo nel sistema. Io ho scritto anche un libro su queste cose, edito da Sole 24 Ore, e che cosa vedete in questa slide? In questa slide vedete che noi alla fine del 2008, all'inizio del 2008, avevamo il credito speculativo rapportato al PIL americano, all'intera dimensione dell'economia americana, che era pari al 28,8% del PIL. È un numero per darvi un riferimento, perché da qui, con questi riferimenti, voi avete in testa dei punti di riferimento, appunto, per dare una dimensione di tutto il resto. Perché sennò parliamo di numeri, ma se non ci sono dei riferimenti non vi dicono nulla. Dove siamo saltati? Siamo saltati, qui vedete ci sono i mortgage subprime, il private equity, il credito al consumo, HY sono le obbligazioni high yield, ok? noi siamo saltati su quel numerino là, 2,2 trilioni di dollari, 2.000 miliardi di dollari, che erano pari al 13% del PIL ai tempi, ma non sono andati tutti in insolvenza quei 2.000 miliardi di dollari, soltanto il 30% è saltato. Su 600 miliardi di dollari si è creato un contagio. Quindi la cifra 600 miliardi di dollari chiaramente non è il 28% del PIL, ma è per darvi un'idea che quando noi abbiamo in giro una massa gigantesca di credito speculativo, dove chi lo emette guadagna tanti interessi ma fa correre dei rischi all'intero sistema economico e finanziario, basta che salta una piccola percentuale di questa qui e genera un contagio nell'economia. Quindi il 2008... 28,8%, ma solo 600 miliardi su 2 trilioni, su 2.000 miliardi, sono quelli che hanno creato il problema. Come siamo messi adesso? 2024, 45% di credito speculativo sul PIL. E qui ci sono tutti questi numeri che non entriamo nel meccanismo, non vi voglio spiegare che cosa c'è dietro ogni singolo numero, perché entriamo in aspetti tecnici, ma il punto è quant'è lo stock di debito a rischio nel sistema privato, debito privato, non pubblico, sono 10,7 trilioni di dollari su 24,5 trilioni di dollari del PIL americano. Pari al 45% del PIL rispetto al 28%. Allora, queste cose qua non si dicono, non escono sui giornali, non vengono pubblicate dalla ricerca macroeconomica che normalmente gira nei circuiti finanziari, non vengono trattati questi argomenti dalle televisioni e non vengono trattati neanche dalle banche di Wall Street, perché queste cose qua devono essere assolutamente segrete. Voi sapevate che c'erano i subprime nel 2008? No, l'avete scoperto quando sono saltati per aria. Di queste cose qua non se ne può parlare. Perché? Perché questo è un indicatore del rischio che circola nel sistema. E se voi sapete che l'indicatore di rischio è questo, tutti tagliano la corda dal sistema e il sistema implode. Quindi è assolutamente importante che queste informazioni non escano. Io per reperire queste informazioni ci impiego tanto, perché non sono pubbliche. Devi andarle a cercare. Devi sapere dove sono questi numeri per trovarli. Non te le mettono sui giornali. Quindi devi fare delle ricerche. Ora, il punto è che se dovesse arrivare una crisi, questa roba qua mediamente il 30% salta, la percentuale statistica è questa qua. E se salta il 30% di 10 trillion, sono 3 trillion, che è il 15% del PIL americano. Cioè un botto mai visto statisticamente nella storia. Forse dobbiamo tornare al 1929. E per darvi un'idea della dimensione del problema, questo spiega perché gli Stati Uniti stanno facendo certe cose, che sembrano impazziti. Non sono impazziti. Sono disperati. Non sono assolutamente impazziti. Cioè trattare questi argomenti dicendo che Trump è un pazzo, è un dittatore, gli americani sono impazziti, non è vero. Gli americani hanno dei problemi, ma non si possono sapere e non si devono raccontare. Ora, queste cose ci spiegano un attimo cos'è successo, quindi la dinamica di questi eventi è riassunta un po' in questo grafico qua. Adesso, mi serve questo grafico per farvi capire una cosa. La linea rossa sostanzialmente riassume l'andamento dell'economia mondiale, ok? sono i global PMI, cioè sono degli indicatori che ci fanno capire come sta andando il ciclo dell'economia. Quando la linea rossa cresce l'economia va bene, quando l'economia rossa si contrae stiamo andando in crisi o in recessione. Questo indicatore qui parte dal 2016, quelle barre sono i profitti delle società americane e europee, e che vedete sono molto correlati con la linea rossa, no? Quindi partiamo dal 2016, dopo la crisi del 2008, l'economia, come vedete, la linea rossa tende a recuperare grazie agli interventi che sono stati fatti, entriamo in una fase di espansione economica che dura dal 2016, 2015, 2016, tocca il suo picco nel 2018 e nel 2019 comincia a perdere velocità. Quando noi vediamo queste cose qui ci prepariamo all'arrivo di una recessione, perché tu sai che hai in circolazione tutta quella situazione di credito speculativo che abbiamo visto prima, gigantesca, e hai l'economia che comincia ad andare male e ti prepari a una crisi. Ma cosa succede? Succede che noi nel 2019, quando quella linea rossa è passata sotto la linea dello zero, stavamo per entrare in recessione e lì sarebbe scoppiata una crisi finanziaria in America, probabilmente come nel 2008, capite? Però che cosa è successo? Scusatemi il termine, grandissimo colpo di culo, arriva il Covid. È stato il più grande colpo di fortuna che l'America abbia avuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Perché questa è stata la scusa per coprire tutti quei buchi che c'erano con gli interventi fiscali e monetari. Capite? Quindi che cosa c'è stato? C'è stato il Covid, nessuno... Se non ci fosse stato il Covid saremmo stati comunque travolti da una crisi economica finanziaria e sarebbe venuto fuori ancora il problema che le banche di Wall Street avevano creato una colossale massa di speculazione finanziaria nel sistema, e lì sarebbe stato un problema politico per gli americani davanti al resto del mondo. Chi è che andava a raccontare un'altra volta l'avete fatto un'altra volta? Non si poteva dire. Quindi c'è stato questo colossale intervento. Questo colossale intervento ci ha fatto uscire da quel buco e l'intervento ha prodotto quel rimbalzo lì. Adesso però guardate cosa sta succedendo. La linea rossa, tra un po' di su e giù, sta cominciando a appiattirsi di nuovo. Il problema è che questo sta avvenendo mentre gli americani stanno spendendo una marea di soldi per tenere su l'economia. Stanno facendo un fracco di debito pubblico per tenere in piedi il sistema. E questa è una cosa preoccupante. Allora, siccome noi sappiamo che c'è in circolazione tutta quella roba che abbiamo visto prima, il rapporto al PIL, quindi la dimensione del problema rispetto al 2008 è quasi il doppio, ok? In termini di rischi di sistema, e questo è un gravissimo problema. E quindi innesca dei comportamenti che sembrano follia, no? Sembrano follia. Quindi guardate che succede. Per cercare di tenere in piedi un sistema che non produce più ricchezza, se non solo per pochi, nonostante i massicci interventi pubblici, l'economia non ce la fa. Perché non ce la fa? È molto semplice, perché per ogni dollaro di PIL che tu produci, il 90% va in tasca solo al 10%. E quindi tutto il resto della popolazione non ha i soldi per tenere in piedi l'economia. Deve indebitarsi per tenere in piedi l'economia. Deve comprare la macchina a rate, il cellulare a rate, tutto a rate. Perché? Perché la ricchezza entra nelle mani del top 10% dell'economia americana. Allora, che cosa succede? Noi, guardate, quando vi ho detto la storia comincia nel 2000, perché il debito americano rispetto al PIL, qui c'è la guerra dal 1900, la crisi degli anni 30, guardate dov'era il debito PIL, la crisi degli anni 30, eh? non è partita dal debito, capite? La crisi degli anni 30, gli americani avevano il debito PIL al 25%. Era una posizione fantastica, eppure sono saltati lo stesso, nel 29. Il debito pubblico così basso negli anni 30 ha consentito all'America di fare le politiche keynesiane. Le politiche keynesiane hanno avuto un grande successo, certo, perché avevi il debito PIL al 20%. Quindi hanno fatto 70 punti di debito PIL. Guardate dove è andato, al 120% durante la guerra. Però gli interventi dell'amministrazione Roosevelt negli anni 30-40 hanno raddoppiato il debito PIL, chiaramente l'economia lì si è ripresa. Ma noi nel 2000 abbiamo avuto la crisi del 2001, la caduta delle Torri Gemelle, e gli americani hanno dovuto intervenire a sostenere la crescita dell'economia con spesa pubblica. Il debito ha continuato a salire. Quindi il sistema non va da solo, non cammina con le proprie gambe dal lontano 2002, da quando sono cadute le torri. C'è un problema sull'economia americana. Un problema tale, guardate dal 2008, cos'è la linea blu? La linea blu sono gli interventi del governo americano per sostenere l'economia e gli interventi della banca centrale americana, la Federal Reserve, che ammontano a 36,9 trilioni di dollari per ottenere 2,9 trilioni di dollari di PIL. Cosa ci dice questo grafico? Il sistema è saltato. È letteralmente saltato. 36,9 trilioni di dollari di interventi fiscali e monetari per ottenere 2,9 trilioni di dollari di PIL. Politiche keynesiane non funzionano, neanche quelle. C'è un problema, giusto? Né le politiche monetarie né quelle keynesiane riescono a far uscire l'economia americana da questa situazione. Beh, quello che hai detto tu prima, cioè c'è una strozzatura nella distribuzione della ricchezza, perché i partecipanti al mondo economico, il 90% partecipa solo grazie al debito. Esatto. E questa è una corda che più la tiri e più si avvicina a spezzarsi. Esatto. Adesso dobbiamo entrare nel cercare di comprendere, come diceva Massimo, perché siamo in una situazione di questo tipo, perché nonostante hai interventi fiscali sempre più importanti l'economia non va, anzi perde velocità. Noi in economia chiamiamo l'intervento fiscale, viene misurato con il moltiplicatore fiscale. Per ogni dollaro che metti dentro, quanti dollari di crescita ottieni? Oppure c'è il moltiplicatore monetario. Per ogni intervento monetario che fai, quanti dollari di crescita ottieni? E questi moltiplicatori, come li chiamano gli economisti, fanno così. Hai una crisi del sistema capitalistico. È evidente, ormai è nota, ma molti cercano di nascondere questa cosa, ma la situazione è che questo è il moltiplicatore, cioè guardate che cosa succede, questo è il calcolo del PIL americano senza la spesa pubblica, cioè praticamente senza la spesa pubblica il PIL americano sarebbe 9 trilioni di dollari più basso di quello che è oggi, cioè di 24,5 ne mancherebbero 9. Ma il problema è che questa spesa pubblica richiede circa 12 dollari di interventi fiscali per ottenere solo un dollaro di PIL. Quanto andiamo avanti? Questo è il motivo per il quale il debito cresce sempre di più e l'economia è sempre ferma. Quanto andiamo avanti? Finché ci prestano i soldi. Allora, è chiaro che qui c'è un problema strutturale che nessuno vuole intervenire a risolvere. Perché? Perché i motivi, i mezzi per intervenire, per risolvere, li hai. Il problema è che per intervenire a risolvere questo problema qua devi toccare delle cose che possono procurare una crisi a Wall Street, alla borsa. E chi si prende la responsabilità di far crollare questo la borsa? Questo è molto interessante perché ne abbiamo parlato tante volte, perché le società americane pagano così poche tasse e anzi le eludono attraverso circuiti internazionali, paradisi fiscali eccetera, e nessuno li tocca, perché se fossero costrette a pagare le tasse che cosa succederebbe? E qui infatti cosa vediamo qua? Adesso entriamo in questa osservazione che ha fatto Massimo. Questo è l'andamento del debito americano, del deficit americano. Deficit intendiamo in economia quello che noi abbiamo, il parametro del 3% di Maastricht, ok? Quando l'Italia deve stare dentro il 3% di deficit annuo. Debito invece è lo stock totale del debito pubblico. Guardate cosa succede quando noi ci siamo trovati. La linea rossa è l'andamento della media del deficit degli ultimi anni. Allora, l'America dal 2010 ha continuato a fare spesa pubblica. L'intervento pubblico non è mai finito. Dopo la crisi del 2008, l'economia americana ha dovuto continuare a buttare dentro spesa pubblica a ritmi del 5% mediamente all'anno, che è tanto, eh? È tanto, perché guardate storicamente invece quando è successo che hanno messo dentro tanti soldi così nell'economia. Mai, perché nell'81 hanno dovuto fare un intervento, che ora c'è stata la crisi del 1980-1981 in America, hanno fatto un intervento fiscale, ma poi dopo l'economia ha sempre avuto, diciamo, una fiscalità molto in ordine. L'economia cresceva e l'America non faceva debito. Dal 2010 è strutturale il deficit, anzi è aumentato. Quella linea rossa, a parte abbiamo avuto il buco del Covid, vedete la linea blu, che poi è stato in qualche modo corretto, però la media della spesa pubblica adesso è intorno al 7,5% del PIL ogni anno. Il debito pubblico che cresce così. Perché? Perché tu, per tenere in piedi la crescita dell'economia ed evitare che ti scoppi per aria tutta quella credito speculativo che vi ho fatto vedere all'inizio, devi continuare a buttare dentro soldi. Continuare. Perché? Perché nessuno deve fallire. E allora fallisci tu, però, facendo così. Per non far fallire gli altri, fallisci tu, fallisce il governo, lo Stato. E questa roba qua non è sostenibile, capite? Perché noi ci siamo trovati in situazioni di questo tipo soltanto nel 40-50, però lì c'erano dei motivi, oppure negli anni 80 fino all'84-85, quando poi è arrivato Reagan e ha fatto delle ristrutturazioni, diciamo così, una liberalizzazione economica, ha fatto ripartire tutto. Prima con la presidenza Carter, come vedete, c'era una situazione di crisi che è cominciata negli anni 70, dove c'è stata la rottura del dollaro con l'oro. La guerra del Vietnam ha cominciato a portare in deficit sempre di più il bilancio pubblico americano, e lì c'è stata una grande crisi di dollaro, una crisi dell'economia che è durata anni 70, anni 80, 10 anni, cioè non 2 mesi, 10 anni. Quindi, ora che cosa succede? Guardate la dinamica del debito interno. Qui non stiamo parlando di debito pubblico, quello che vedete qui alla mia sinistra, è la crescita dello stock di debito privato e pubblico nel sistema, cioè tutto il debito dell'America, non solo quello del bilancio dello Stato, anche quello delle società, quello dei privati, le rate della macchina, per dire. Qual è lo stock del debito? 104 trilioni di dollari. 5 volte il PIL. Guardate com'è cresciuto, anni 60, anni 80, crisi del 2001, e lì è partita un'accelerazione che non abbiamo più fermato. Crisi del 2008, non si è mai fermato, ha continuato a esplodere. E quel grafico là sulla destra cos'è? Quella è la posizione finanziaria netta degli Stati Uniti d'America nei confronti del mondo. Dal 1990 a oggi. Abbiamo avuto fino al 2006-2007 una posizione di debito estero. Ok? Debito estero. Quanto gli americani devono dare al mondo che li finanzia, quel debito lì è pari al 95% del PIL americano. Molto peggio dell'Argentina, molto peggio di qualsiasi paese, dell'Angola o dello Zambia. Questa è una situazione chiaramente non sostenibile. Come fanno ad andare avanti così? Quanto dura? Ci stiamo preparando e anche l'amministrazione Trump si sta preparando ovviamente a qualcosa di sistemico. Può succedere che se qui c'è un incidente, a parte che l'incidente non ci deve essere, e quindi già operare a gestire un'economia come quella americana, dove incidenti non ne devi avere, recessione non ne devi avere, non puoi avere una crisi, deve solo tutto salire, continuare a pompare denaro dentro il sistema fino a quando arriva un 29, non arriva un 2008 qua. Se succede qualcosa qui arriva un 29, non 2008. Perché quando tu hai 100 trilioni di debito in circolazione, se fa solo default il 20%, tutta l'economia va a zero. Perché l'economia sono 24 trilioni su quei 104. Ok, tu per produrre 24 trilioni di crescita economica, di PIL, hai fatto 105 volte il debito. E questo, tutti questi numeri che vi sto dando sono per contestualizzare. Perché quando leggete sui giornali debito che cresce, sì, ma quanto, dov'è, come siamo messi rispetto alla storia, qual è il contesto? Devi avere dei parametri di riferimento, se no non sai di cosa stai parlando. Non conosci la dimensione del problema. E così guardate cosa succede, questi sono, cosa succede alla crescita americana. La linea azzurra, guardate, è preoccupante perché nonostante tutto questo intervento, questa spesa, questa spinta, la crescita è quella là. Allora qualcuno mi può dire, ma sui giornali c'è scritto che crescono al 3,5%, hanno pubblicato i dati sul PIL 3,8%, certo sono falsi. Sono dati falsi, non sono veri, sono come quelli della Cina. Perché voi credete che la Cina cresce al 5? Cioè la Cina ha avuto la più grande crisi immobiliare, molto più grande di quella americana del 2008, e pubblicano sempre la crescita al 5. Anche 4,5, sì, ogni tanto, però è tra 4,5 e 5, è sempre lì, tac, tac, tac, sempre 5. Voi credete che i dati della Germania sulla crescita dell'economia sono veri? La Germania ha la più grande crisi industriale del dopoguerra. Sapete quanto ha perso la produzione industriale tedesca dal Covid? C'è qualcuno di voi che ha un'idea? Il 20%. Bravo. Il 20%. Il PIL più 1,5. Esportazioni tedesche zero. Per la prima volta quest'anno la Germania ha un deficit commerciale con la Cina. Non era mai successo nella storia. Consumi tedeschi zero. Deficit pubblico, tu dici, c'è l'intervento pubblico. No, perché i tedeschi non hanno deficit. Stanno cominciando a farlo adesso. Però davanti a quei numeri lì, il PIL 1,5. Allora ragazzi, qui stiamo taroccando tutti per non far capire come siamo messi, ok? Siamo entrati nella falsificazione dei dati macroeconomici, siamo entrati nel contesto di nascondere i buchi, le banche americane sono piene di perdite, bilanci stratosferici, CEO, centinaia di milioni di dollari di bonus, non milioni, centinaia di milioni di dollari, ok? Stiamo parlando di gente che prende 40-50 milioni di dollari di bonus all'anno su bilanci falsi. E lo sappiamo tutti che sono falsi. Questo è il sistema nel quale noi stiamo operando, là abbiamo la crescita mondiale, vedete, non va, anche se la Cina cresce al 5 e l'America dice che cresce al 3,5, e la crescita mondiale è sotto il potenziale, che è quella linea tratteggiata, che deve essere intorno al 4. Non ci arriviamo, non ci arriviamo, e stiamo spendendo miliardi al giorno per tenere in piedi un ciclo dell'economia che non va. Perché non va? Perché tutte le risorse che noi stiamo buttando dentro nel sistema servono a tenere in piedi quello che c'era nella seconda slide. Tutti i soldi servono a puntellare il debito speculativo che può saltare. Le banche non prestano più all'economia, prestano solo a quei signori là, per stare in piedi e non fare default. Arrivano a fine del trimestre, le rate non le pagano, saresti in default. Che facciamo? Facciamo che te le cumulo e allunghiamo. Allunghiamo, andiamo avanti. Ma i soldi glieli devi continuare a dare. Quindi tu stai investendo risorse in settori dell'economia che non producono più ricchezza, producono perdite. Questo è il vero problema che abbiamo. E le risorse che stai investendo in quei settori che producono perdita sono pari al 45% del PIL americano. È chiaro che l'economia non va, è chiaro che devi taroccare i dati, è chiaro che devi continuare a far debito pubblico per impedire che esploda tutto. Però guardate cosa sta succedendo. Io sto intervenendo a dare soldi a tutti. Guardate i tassi di insolvenza qua sulla sinistra, sulle carte di credito, linea gialla. Il picco che vedete là era il 2009. Siamo lì senza la crisi, ufficialmente. Là eravamo in alto, ma la crisi era già scoppiata. Noi siamo già là, ma la crisi non c'è, ufficialmente non c'è. Guardate cosa succede sui prestiti auto, la linea grigia. Sono sui livelli del picco della crisi del 2008. Ma non è ancora successo niente. Cos'è quella linea blu che ha fatto quell'impennata? Prestiti agli studenti. Student loans. Perché ha fatto quell'impennata così di colpo? Perché l'amministrazione Trump un mese fa ha tolto la moratoria sul pagamento delle rate che aveva introdotto l'amministrazione Biden. Moratoria nel senso che il governo Biden aveva detto agli studenti: se non potete pagare, non pagate. O se avete pagato almeno 10 anni, vi teniamo buoni, eccetera. Teniamoli tutto, per ora non pagate. Arrivato il governo repubblicano ha detto: eh no, così non va bene, dobbiamo... Ma anche perché intervengono sempre nei confronti di quelli che non hanno voce in capitolo. Noi avevamo parlato che ci sono più di 3 milioni di americani sopra i 60 anni che continuano a pagare i prestiti contratti quando studiavano. Quindi tutto questo nasce da una precisa volontà politica, dal mio punto di vista, che è comunque quella: salviamo le banche come nel 2008 e condanniamo invece all'insolvenza tutti quelli che avevano comprato una casa, eccetera, eccetera. Quindi si salvano i pochi a spese di tutti gli altri. E questo è un sistema assolutamente immorale, ma è talmente fondamentale perché il mercato rimanga dov'è, che questo sistema non si può cambiare, o perlomeno le persone che oggi governano non possono metterci mano. E adesso lui ti pregherei di spiegare perché. Non possono metterci mano, cioè nella realtà ho delle slide che lo spiegano perché non puoi metterci mano. Fate i cattivi, adesso te le fai vedere. Là sulla destra abbiamo il numero dei fallimenti al 30 giugno 2024, già di un anno fa, e guardate i fallimenti che abbiamo avuto con la crisi del 2008, che ha toccato il picco, vedete, prima del 2010. Sono partiti queste insolvenze settore privato, e queste sono cose preoccupanti, perché tu continui a buttare dentro soldi nell'economia, continui a dire no, ma noi abbiamo l'economia forte, va bene, però qui nessuno paga, ragazzi. Qui la gente non paga, ok? Andamento dei salari reali. Cos'è questo grafico qui? Cosa vi dice? Perché quando poi io faccio vedere queste cose qui hanno una presa diretta, perché tu vedi come vanno le cose, non è che te le dico, tu vedi come vanno le cose. Allora, negli anni 60-70 fino alla metà degli anni 80, fino agli anni 80 più o meno, diciamo la componente salariale americana pesava sull'intero reddito prodotto dall'economia americana, ok, per circa il 50%, 48-47%, cioè i redditi prodotti dai salari rapportati all'intero reddito prodotto dall'economia americana, quindi anche quello delle società, ok? La differenza fra capitale e lavoro. Esatto, aveva una percentuale intorno al 48%. Chiaramente tu in quegli anni lì non avevi bisogno di fare tutto sto debito per comprarti il televisore, la macchina a rate, i mutui per la casa, le carte di credito. Perché? Perché guadagnavi dei soldi. Guardate cosa è successo però. Partita la globalizzazione nel 2001, arriva la Cina, deindustrializzazione in America, la percentuale di redditi va giù, ma il problema è che qui c'è stato anche gli interventi di stimolo fiscale. Gli americani durante il Covid hanno ricevuto mediamente dai 10 ai 15 mila dollari a testa a casa, compresi i bambini. Cioè, ci rendiamo conto di un intervento fiscale fatto? 10-15 mila dollari a testa per stare sul divano. Assegni che arrivavano puntualmente ogni o settimana. Dove sono ogni andati mese? Tutti? Su Amazon. Sono andati tutti in borsa, perché qualcuno comprava anche con quei soldi lì, faceva speculazioni in borsa, trading online. E lì c'è stato il rimbalzone dei consumi che faceva pensare che noi avevamo superato la crisi, no? E beh, te credo, ti regalo 15 mila dollari per non far una mazza. Tu sei a casa, che fai? Cosa fai? C'hai 15 mila dollari in tasca, i negozi sono chiusi, cosa fai? Li spendi online o li giochi in borsa. Quindi quella cosa lì ha creato l'illusione, no, di una ripresa, che però, come avete visto, in quello che vi ho fatto vedere prima, si è spenta quasi subito. E quindi che cosa succede? Se tu hai questa situazione dove i salari vengono giù, dall'altra parte, per mantenere il tuo livello di vita, succede che fai quel debito là. Guardate quella linea rossa, parte dal 2003, 7 mila miliardi di dollari di debito delle famiglie americane. Oggi siamo a 18 mila miliardi di dollari delle famiglie americane. Abbiamo avuto dal 2003 al 2008 la prima ondata di indebitamento, tutta fatta sulle case, giusto? Poi c'è stata la crisi, il debito è sceso un po' e poi è ripartito, perché la crescita, i consumi in America sono quasi tutti finanziati. E questo ha portato a un'ondata di indebitamento che ha toccato un minimo di 11 mila miliardi di dollari, siamo a 18 mila miliardi di dollari. 18 su 24. Guardate, solo per darvi un esempio, allora in questo momento gli americani sui mutui pagano circa il 7%, se tu contrai un mutuo oggi in America paghi il 7%. Fisso? Fisso, tasso fisso. Adesso stanno scendendo un po' perché la banca centrale sta riducendo i tassi. Però tendenzialmente possono arrivare al 6, insomma, adesso. Guardate sulle carte di credito cosa pagano. Quelle sono l'andamento dei tassi sulle carte di credito dal 1995, eh? Cioè è roba di due mesi. Dal 95 i tassi erano al 16% nel 95, ma nel 95 i tassi sul dollaro erano all'8%, 9%. Adesso sono al 24%. E uno dice, ma come? i tassi dal 9% sono andati al 4%, e i tassi sulle carte di credito, sul debito, è passato dal 16%, che ha toccato un minimo intorno al 12-13%, adesso 24%. E anche qui abbiamo visto che le carte di credito, le società di carte di credito, sono tutte incorporate in Nord Dakota, dove non c'è un limite, la legge sull'usura, sostanzialmente. La legge sull'usura in America non c'è. No, c'è in alcuni stati, ma dove è incorporate, dove sono incorporate, dove hanno la sede sociale Visa, American Express, eccetera, che in Nord Dakota questa legge non esiste, e quindi fanno carne di porco. Sapete perché sono così alti quei tassi lì? Dipende dalla qualità del debitore. Più sei un pessimo debitore, più ti carico interessi, perché sei a rischio. Allora, quanto rischio c'è nel credito? Allora, questo che cosa ci dice? Se noi facciamo dei calcoli, noi economisti, facciamo dei calcoli e calcoliamo quanto debito hanno fatto gli americani sul credito al consumo, sui mutui, scopriamo che oggi il 20% di tutti i consumi interni, auto, supermercato, spesa, vai a prendere il latte, compri il televisore nei centri commerciali, il 20% di tutta quella spesa lì è finanziato. È la più alta percentuale mai raggiunta nella storia dell'economia degli Stati Uniti. Prima della crisi del 2008 era il 10%. Il 20% di tutti i consumi sono finanziati. Allora, cosa... Uno che guarda queste cose dice: ma questi qui sono messi male, no? Però le banche di investimento di Wall Street pubblicano delle statistiche che ci dicono invece il contrario, e dicono: no, non è vero, guarda, questo è total household debt, vuol dire il debito del nucleo familiare. Ok? Ogni famiglia, fanno una media, quanto debito ha. Non è vero che si sono indebitati gli americani, anzi guarda, rispetto al 2008 il debito, che era il 115% del reddito disponibile di un anno, adesso è sceso all'85%, quindi stanno benissimo. Stanno risparmiando. Non hanno tutto il debito che avevano prima. L'economia è messa bene, siamo messi bene. E uno dice: ma scusami un attimo, però c'è qualcosa che non mi quadra in questa roba che mi dici, no? Perché il debito da 11 è andato a 18, i tassi dal 16 sono andati a 24, e come ha fatto a calare così? Perché per calare così vuol dire che il reddito degli americani è esploso. E quindi uno si fa una domanda, no? Nel mio lavoro nessuno si fa le domande, perché è meglio che non se le facciano. E quindi tu ti fai questa domanda e dici: ma voglio andare a verificare se questo grafico qui è vero, perché cambia tutto, no? Perché se è così, siamo davanti a un boom dell'economia. E io vado a fare un controllino e dico: allora, quant'è il totale del debito che hanno le famiglie americane? 17,3, questo è un dato che risale al fine 2023, comunque 17.300 miliardi, benissimo. Quante sono le famiglie americane? Sono statistiche che vengono pubblicate dal governo. Sono 131 milioni, lo vedete là? 131 milioni. Se io divido 17.300 per 131 milioni, cosa viene fuori? Viene fuori che, calcolando il reddito mediano sono $74.000, il reddito medio sono $106.000. Se io prendo quel debito lì e lo divido per il reddito, viene fuori che, guardate dov'è, dal 130 al 176%. Chissà di statistica sa la differenza che c'è tra reddito mediano e reddito medio. Reddito mediano toglie 50%. No, toglie i picchi. toglie il reddito di Elon Musk, toglie il reddito di Bezos, toglie il reddito dei mega top miliardari americani, che tu non puoi fare la media, hai capito, di quello là che guadagna un miliardo di dollari all'anno con famiglie che ne guadagnano 50.000, perché sennò mi sbaldi tutto. Quindi quello che fa riferimento è il reddito mediano. Il reddito mediano è 74.000 dollari in America. Se io prendo il debito, lo divido per le famiglie, viene fuori che sul reddito mediano è il 176% di debito rispetto all'85%, esattamente il doppio di quello che ci raccontano. Questo è per farvi capire perché l'economia non va. Perché non va? Ma va? Perché non va? Come facciamo a mettere a posto questa roba? Come facciamo a uscire da questa situazione qui? Ma sarebbe molto semplice. Guardate i profitti delle società americane. Qui, sulla sinistra. Andamento dei profitti in miliardi di dollari dal 2000, 1990, a oggi. E quelli sono i redditi di chi lavora dentro le società americane, ok? Quindi, se tu hai quei profitti lì, quant'è il tasso dell'aliquota fiscale sulle società americane che fanno tutti quei soldi? È quella là che vedete in quella linea blu. 16%. Pagano 16% di tasse. Quanto contribuiscono al bilancio pubblico, alle entrate fiscali del governo americano, le società americane, le grandi multinazionali che guadagnano miliardi al giorno? 1,7%. Vogliamo andare avanti così? Per me va bene, andiamo. Però tu fallisci. Adesso il problema qual è? Il problema è che se tu vuoi ristrutturare questo sistema che sta saltando, puoi fare solo una cosa, aumentare le imposte sulle società quotate, perché non le pagano. Cioè, se un bilancio pubblico riceve solo l'1,7% delle entrate a fronte di società multinazionali che guadagnano centinaia di miliardi in giro per il mondo, è chiaro che devi tassare lì, non puoi tassare i redditi dei privati, no? E chi è che fa questa operazione qua? Perché vedete, se voi toccate quell'aliquota fiscale lì, le società quotate in borsa guadagnano meno. E se guadagnano meno, la borsa scende. E se scende la borsa, innesca una crisi finanziaria su quelle cose che avete visto nella seconda slide. E chi è che osa farlo? Nessuno. Quindi hanno le mani legate, non possono toccare la borsa, perché se tu tocchi questa roba qui, viene giù la borsa e mi scateni un 1929. Non si può toccare. Lasciamo tutto così. Questi le tasse non le possono pagare. Ok? Allora tu sei costretto ad andare avanti però con questo modello. 8% di PIL di debito e i privati continuare a debitarsi per consumare. Perché io lo stipendio a quelli non glielo posso aumentare. Devo sostenere i profitti per tenere sulla borsa. Pensate in che trappola si sono infilati. È un casino, eh? Cioè hanno creato una colossale bolla finanziaria, hanno messo in giro credito speculativo ingestibile e adesso non lo possono toccare, perché nessuno nel governo americano può dire ho deciso di creare una crisi finanziaria. Chi è che si prende la responsabilità? Chi è il politico che si prende questa responsabilità? Nessuno. E quindi cosa fai? Lasci andare le cose come è successo negli anni 20. Nessun banchiere centrale negli anni 20 poteva intervenire a fermare la bolla di Wall Street. Perché ti prendi la responsabilità? Chi è che ha creato la crisi finanziaria? Trump? No, io ho fatto solo politiche fiscali che hanno cercato di tenere sulla borsa. Quando verrà fuori il casino e scoppierà, vanno a prendere i banchieri, giustamente. Già, voi della JP Morgan avete fatto queste cose, voi come negli anni 20, è successo questo nel 29. Hanno preso le grandi banche e le hanno messe all'indice. La finanza americana è entrata in 25 anni di iperregolamentazione, non potevano far più niente. Ma nessuno ha osato procurare la crisi per intervenire a ristrutturare il sistema, perché questo sistema così non funziona e dovrebbe essere ristrutturato, ma non puoi ristrutturarlo. Questo è per farvi capire che casino è, che è una situazione che è veramente complicata, perché da una parte non puoi andare avanti così, ma dall'altra parte nessuno può usare di fermare questo meccanismo, perché si prende la colpa di aver creato una crisi. Capisci? E la dimensione dei problemi è quella che vi ho fatto vedere. La dimensione dei problemi è che il debito non è tanto quello pubblico che mi preoccupa, ma è il debito privato. Ora, altra cosa, pensate che noi siamo a questo punto, questa è la dimensione dei programmi di assistenza che il governo americano eroga ogni anno per le famiglie che non arrivano a fine mese. Il 45% delle spese pubbliche sono destinate a assistenza sociale. Qui non riesci a tagliare niente. Il debito pubblico non lo tocchi, perché se tu tocchi sta roba qua, tutto quel debito là salta. Perché se tu cominci a dire io non ti posso più pagare il Medicare, Social Security, devo tagliare l'assistenza, non ti posso dare più l'assegno per l'asilo nido, non ti posso dare più l'assegno per l'affitto delle case, non ti posso dare più... Quella gente lì non paga più le rate sulla macchina, non paga più le rate sulle carte di credito e parte un casino come nel 2008. E quindi la spesa pubblica, il debito, non lo puoi fermare, capite? Se noi diciamo che il problema è il debito pubblico, ma il problema del debito pubblico dipende dall'assistenza sociale, chi è che osa toglierla? Ditemi come fate voi a gestire una situazione di questo tipo. Non togli la spesa sociale, cancelli le spese militari, adesso che vai a fare geopolitica contro la Cina, cancelli le spese, non puoi. C'hai margini praticamente impossibili da tenere. Beh, non per niente, voglio dire, Trump quello che sta cercando di fare in tutti i modi è tagliare, non magari alla dove c'è la carne viva, ma tutto quello che è pelle e cose, perché fondamentalmente non c'è più la possibilità di finanziare un debito così grande, perché il discorso dell'oro, faccelo un attimo, il discorso di cosa sta succedendo, io devo andare a chiedere all'estero finanziamenti che mi comprino il mio debito. L'estero è sempre più riluttante a comprare debito americano. E quindi l'estero conosce questi numeri qua, no? I grandi finanziatori internazionali sanno come sono messi gli americani, per quello che l'oro sta esplodendo sui mercati, perché temono una grande crisi in America. Perché tu quando sei messo così, i tuoi margini di manovra sono pari a zero, a zero. Quanta gente riceve assistenza Medicare? Il 20-23% della popolazione. E quello è il bilancio dello Stato, eh? Quanta gente riceve i buoni pasto? L'11,7% della popolazione, buoni pasto, per andare a mangiare alle mense, l'11% della popolazione. Quanta gente riceve assistenza sui pasti nelle scuole? 8%, 10% della popolazione. Adesso che cosa fa il governo Trump? Mandiamo via tutti gli immigrati, perché gli immigrati accedono a queste cose qua. Capite perché li mandano via? Per questo motivo. Non c'è un motivo razziale. Perché loro dicono, noi soldi non ne abbiamo più. Mandiamo via i messicani perché così gli togliamo tutti questi sussidi. perché sono quelli che lavorano da McDonald's che guadagnano $1,000 al mese e non arrivano a fine mese, sono quelli che lavorano nei magazzini di Amazon e quelli lì devi mandarli a casa, perché ti succhiano tutta l'assistenza sociale e il bilancio pubblico non sta in piedi. Adesso mi dite voi come facciamo a tenere in piedi questa cosa. Guardate negli singoli stati, anno fiscale 2024, la percentuale di popolazione che accede ai sussidi statali, la percentuale di popolazione. Più è scuro il livello di intensità, no? Nel nero, gli stati in nero, più del 16% della popolazione riceve assistenza pubblica. Pennsylvania? In stati come New York, più del 16% della popolazione riceve assistenza pubblica. Stiamo parlando Oregon, degli stati più ricchi. Guardate, California, siamo tra il 14%, dal 12 al 14% della popolazione. La Florida. Cioè, è chiaro che è una situazione, possiamo definirla drammatica, cioè che gli americani si sono praticamente affossati in questi anni di tassi a zero, hanno fatto 14 anni di tassi a zero e hanno ottenuto questi risultati qua. E poi se vai a guardare bene, gli stati chiari sono quelli meno popolati. Sì. Perché il Montana, sì. North Dakota, Wyoming, Utah, Colorado, Kansas, Idaho, sono tutta... Cioè è chiaro che tutta quella gente lì ha votato Trump. Ha votato Trump. Gli stati dove hai quelle percentuali lì hanno votato Trump. Alte. Perché? Perché hanno votato Trump? Perché Trump gli ha detto: mandiamo a casa gli immigrati e diamo l'assistenza a voi e riportiamo la produzione industriale qua, la portiamo via ai cinesi, cosa un po' complicata. Però è solo per farvi capire che situazione complicata è. Quello che diceva Massimo adesso sul meccanismo di finanziamento del debito, adesso quello che è un indicatore del rischio del sistema è l'oro. Perché tutti pensano che sia la borsa l'indicatore del rischio di sistema. Però voi dovete scegliere davanti a queste informazioni se la borsa che sale è un indicatore che va tutto bene o l'oro che sale è un indicatore che va tutto male, perché le due cose dicono esattamente il contrario uno dell'altro. Perché l'oro sale così? È un indicatore di rischio del sistema. L'oro sale così perché le grandi banche centrali internazionali hanno capito che qua viene fuori un casino. E allora stanno uscendo dal dollaro. Siccome uscire dal dollaro è difficile, sapete perché è difficile uscire dal dollaro? Perché non te la lasciano fare. No, non tanto per quello, è perché se tu guardi la maggior parte degli asset finanziari quotati sui mercati internazionali è in dollari. Quindi se tu hai, che ne so, un patrimonio di 100 miliardi, cioè non è che trovi tanta roba in giro. Finisci a investire in America. Esatto, se in qualche modo, cioè i mercati più grandi sono quelli americani, tutti gli asset finanziari sono... Allora loro cosa possono fare? L'euro ha dei mercati più, cosa compriamo? I titoli di Stato italiani? Compriamo quelli tedeschi, ma quelli tedeschi c'è poca roba in giro, quelli svizzeri c'è zero, non c'è niente. E quindi cosa fanno? Diciamo, l'unica cosa che si può comprare è l'oro. Se comprano l'oro, allora le banche centrali hanno comperato oro, che io mi ricordo nella storia dell'economia moderna, soltanto una volta prima, nel 1970. Quando è saltato il peg del dollaro con l'oro, era Nixon, e c'è stata una colossale crisi valutaria sul dollaro, una fuga di capitali dagli Stati Uniti, si sono riversati ingenti capitali sul franco svizzero, marco tedesco, fiorino olandese, e a quei tempi lì, se voi andavate in una banca svizzera a depositare i vostri franchi svizzeri, tu non volevi più il dollaro, comperai i franchi svizzeri, andavi all'UBS, diceva voglio un conto in franchi svizzeri, bene, paghi il 2%. Rendimento negativo. Rendimento negativo. Voglio il marco tedesco, bene, paghi l'uno, l'1% mi dai per avere i marchi tedeschi. Cioè, per dirvi che cosa succede, eh? Succedono dei casini, cioè non è che queste cose qua finiscono a tarallucci e vino, come si dice, eh? Questi finiscono male, queste cose qua. Perché tu quando fai queste cose qua, finiscono male. In economia non c'è niente di gratis. Qualcuno il conto lo paga. Il guadagno di uno è la perdita di qualcun altro. Quindi in economia di gratis, pasti gratis, come si dice, non ce n'è. Se tu fai queste cose qua, puoi rimandare il conto. Fai le politiche per non prendere le perdite, rimandi, fai queste cose, fai deficit, cerchi di puntare il sistema, dai soldi a tutti, ma poi il conto arriva. Allora, questo è per darvi una dimensione del problema, che non è un problema che riusciamo a gestire, capite? Noi possiamo stare qui a parlare come fare uscire da questa situazione, ma tu hai solo tre possibilità, come diceva Massimo prima dell'inizio di questa serata, per uscire da questa situazione qua. Ci sono solo tre soluzioni. O scoppia una crisi, perché crollano i mercati come nel 2008, e questo meccanismo qua ti dà la scusa per intervenire a ristrutturare il sistema. Adesso la crisi c'è, la colpa non è mia che sono al governo, l'hanno provocata quelli di Wall Street, come nel 2008, quindi adesso cambiamo le regole. Questa è la prima ipotesi. La seconda ipotesi è che lo Stato, come sta succedendo adesso, interviene per fare in modo che la crisi non succeda e continua a buttare risorse in questo modello per tenere tutto lì. Però che cosa succede? La gente si incazza, perché la gente deve fare sempre più debito, non arriva a fine mese, vive di sussidi e quindi si impoverisce, la struttura si impoverisce e parte una crisi dal basso, parte una rivolta sociale, partono le manifestazioni di piazza, parte la rivoluzione, diciamo così, che fa cambiare il sistema. Questa è la seconda ipotesi. Però c'è anche una terza ipotesi, che è quella più pericolosa, che il sistema si trasforma in un sistema autoritario, controlla le piazze, mette la Guardia Nazionale nelle principali città americane. Cosa che sta, diciamo, le prove generali le stanno già facendo. E tu entri in un declino lento e costante, dove non puoi cambiare niente. Alla Pinochet. Praticamente le tre soluzioni sono queste, quindi cioè, che cosa ci dobbiamo augurare? Se arriva una crisi, arriva un casino, però almeno puoi ristrutturare la situazione. Se non arriva una crisi dall'alto, può arrivare una crisi dal basso, ma chi permette, cioè siamo in un contesto così democratico oggi da permettere una crisi dal basso? Forse in Europa sì, ma in America probabilmente no. Perché in America arriva la Guardia Nazionale a Chicago, se tu vai a manifestare ti arresta due secondi dopo. Sì, sì, ma difatti le prove generali stanno già svolgendosi alla grandissima, ma giustamente Marco mi faceva notare, di solito gli americani sono sempre stati molto bravi a far pagare le proprie crisi agli altri, no? Il famoso Kissinger diceva essere nemico degli americani è piuttosto pericoloso, essere alleato degli americani è letale, no? E quindi l'idea diabolica è sempre stata quella comunque di far pagare le proprie manchevolezze, i propri problemi agli altri. Oggi come oggi diventa molto più difficile. L'altra cosa che volevo dire, nella terza ipotesi, che è quella autoritaria, il rischio, c'è un rischio di trascinamento, di effetto domino, nel momento in cui la superpotenza diventa quel tipo di nuovo impero, diventa il magnete per tutti gli autoritarismi che già adesso esistono, ma che prendono forza, che diventano molto più sicuri di se stessi, perché dietro hanno un sistema che in qualche modo li protegge certo, adesso diciamo questo problema strutturale che abbiamo, che ormai si trascina da tanti anni, ha premiato l'arrivo di un uomo forte, no? Per cercare di vedere se riesce a risolvere la situazione. Ma la situazione non la riesce a risolvere. Forse non la vuole nemmeno risolvere. No, ma non ce la fa, no? È impossibile. Allora gli americani, cioè il governo americano è assolutamente consapevole di sta roba. Non è che sono così sprovveduti. Difatti il piano economico di Trump prevedeva, adesso non so se riescono a implementarlo, però oltre ai dazi, che sono una tassa sui consumi americani sostanzialmente, oltre ai dazi, Trump ha previsto anche l'ipotesi di andare dalle banche centrali di tutti i paesi del mondo che attualmente hanno riserve in dollari e dire: finanziateci a 100 anni. Ma il tasso di remunerazione lo decidiamo noi. È diciamo a rendimento gestito. Loro dicono: sentite ragazzi, allora, noi abbiamo tenuto in piedi l'economia mondiale negli ultimi 20 anni, ok? Come? Non è meglio non dirlo. Siamo arrivati qua. Adesso o facciamo il botto, però vi tiriamo giù tutti, o ci finanziamo. Oppure c'è una soluzione. Voi avete dollari nelle vostre riserve delle banche centrali? Allora, facciamo una bella roba. Anziché comprare i titoli a 3 mesi, 6 mesi, che non ce ne facciamo niente perché tra 6 mesi siamo di nuovo qui a chiedervi dei soldi, e mettiamo delle obbligazioni per voi a 100 anni al tasso del 2%. E così noi usciamo da una situazione di crisi. Ci mettete in sicurezza, no? Ma questo discorso qui a chi lo possono fare? A quelli che sono dentro la NATO. Perché se vanno dai cinesi, i cinesi dicono: non ti finanzio perché tu sei un mio antagonista geopolitico, quindi io non ti finanzio. Allora, come fare a finanziare gli americani per 100 anni ai tassi che dicono loro? Come fare? Beh, innanzitutto, se uno mi dovesse venire a chiedere una roba del genere, potrei anche dirgli: ma sì, guarda, potrei anche finanziarti, però il dollaro, che facciamo del dollaro? Perché io ti finanzio in dollari, tu mi dai dollari, io ti do dei soldi, ma io rischio dollaro, se il dollaro svaluta che si fa? Cioè io ti finanzio al 2% per 100 anni e se il dollaro perde il 50% del suo valore? Mi va mica bene questa roba qua, giusto? E quindi cosa si fa? E quindi nel momento in cui questi dovessero chiedere una soluzione del genere, si siedono al tavolo i giapponesi, i cinesi, perché hanno la secondo stock di debito dell'America, gli europei, e gli dicono: adesso noi ti finanziamo, però decidiamo, il dollaro non va più da nessuna parte, tassi fissi, tu non puoi più fare i debiti che fai, ovviamente, perché se io ti finanzio e poi tra 3 mesi mi vieni a chiedere altri bonds a 100 anni, cioè è chiaro che qui non si finisce più, no? Ma se succede una roba del genere, capite che l'economia americana ha finito, perché l'economia americana vive di debito. Se tu dici agli americani: non potete fare più debito, è finita. Vi rendete conto in che situazione siamo? Non so se vi rendete conto. Io non credo che voi vi rendiate conto della criticità del contesto economico-finanziario mondiale. Lasciamo perdere la geopolitica, la Russia, la Cina. Vi rendete conto in che situazione siamo? No. Beh, difficile, difficile poter immaginare, però da un certo punto di vista è talmente tutto così collegato, cioè è un sistema che ha fatto una strada obbligata, la quale ha portato alla massimizzazione dei profitti, tutto questo discorso della produttività distribuita dagli anni 70 in maniera inversa di quanto veniva distribuita prima degli anni 70, per cui tra capitale e lavoro il capitale è quello che ha vinto, come diceva Warren Buffett, no? Abbiamo fatto la guerra e la mia parte ha vinto, e quindi è un sistema che alla fine ha prodotto tutta una serie di conseguenze, di una catena di causa effetto che non poteva che finire lì, no? Nel momento in cui tu hai scelto di finanziarizzare il sistema, ti sei infilato in sto casino. Sì, quando Trump dice riindustrializziamo l'America, ma al di là dei cinesi che fanno le cose in una maniera a prezzi molto competitivi, più competitivi, il ragionamento è che i soldi che tu riesci a estrarre dal sistema attraverso la finanziarizzazione sono un multiplo di quelli che ricavi da un'industrializzazione, perché i margini industriali sappiamo tutti quali possono essere su prodotti che non siano... Sì, è vero, però è vero, ma il problema è che ci deve essere un equilibrio tra il reddito prodotto dal lavoro e il reddito prodotto dal settore finanziario o industriale. Ma l'aveva capito Harry Ford, che allora, voleva che le Ford venissero comprate dai suoi operai. No, ma vi spiego qual è il problema. Perché a un certo punto abbiamo fatto questo giochetto qua, abbiamo detto, il sistema occidentale ha detto facciamo entrare la Cina nel WTO, portiamola tutta la produzione industriale, qui progettiamo soltanto, quindi abbiamo bisogno di ingegneri informatici, software e via dicendo, tutto facciamo fare là. La lavorano e noi guadagniamo, giusto? I pochi operai che rimangono qui li paghiamo come i cinesi, e se vogliono la macchina se la comprano a rate, per sempre però la rata, perché come voi sapete adesso i leasing sono per sempre. Quando cominci a fare i leasing auto non esci più, li fai per tutta la vita. Il problema è che i prezzi delle auto vanno su, quindi le rate delle auto diventano impagabili. Oggi in America una rata mensile di una macchina normale, non stiamo parlando della Rolls Royce, è $1,000 al mese. $1,000 al mese. Chiaro che le vendite di auto precipitano, no? Perché la gente non arriva a fine mese. Abbiamo fatto questo ragionamento qua. Poi abbiamo detto... Per guadagnare ancora di più sul capitale, cosa facciamo? Questa cosa fa esplodere i profitti delle società quotate, per cui parte un boom finanziario, e così è stato. E le società adesso non investono più nell'economia, perché i telefonini la Apple li fa in Cina, no? Quando la Apple ti vende il telefonino, incassa sul telefonino da $1,000, ne incassa 600. Quei $600 che incassa, quando ne ha spesi 200 per pagare gli ingegneri e le fabbriche, le produzioni che ha qua, ne avanza. Avanza il 45% del suo fatturato. Fa il 45% di margine. La liquidità della Apple era 200 miliardi di dollari. Dove li mettono sti soldi? Mica li mettono nell'economia. Non è che la Apple dice, adesso ho avanzato $400 dalla vendita del telefonino, apro uno stabilimento che fa... Phone per i capelli. Satelliti o fa altre cose, diversifico, apro nuove linee di business. No, comprano le loro azioni in borsa. Il risultato di questo meccanismo qui è che tutte le società fanno così, non investono più nell'economia. Perché? Perché io non ho gli stabilimenti qui, non ce li ho, me li fanno i cinesi. La roba che io ti vendo me la fa il cinese. Quindi io cosa faccio? Non è che vado dai cinesi e gli do i soldi. Li pago per quello che mi producono, ma l'infrastruttura, le catene di montaggio, so cacchi loro. sono loro che se le fanno. I margini sono tutti miei, e qui, in questa economia qui, cosa investo? Niente. Perché devo investire in questa economia qua? Non investo niente, compro le azioni in borsa. Il risultato è che le azioni vanno su e chi ha le azioni diventa sempre più ricco. E chi è che ha le azioni? Quattro gatti. Quattro. Sì, sì. La statistica è impressionante. Quindi che cosa chi ha veramente le azioni in borsa è frazione piccolissima del popolo americano. L'80% degli americani i soldi non li hanno per comprare le azioni. Non è come da noi in Europa che abbiamo risparmi. Sì, sì, l'azionariato diffuso è una bella parola. In America, cioè, hanno pochissimo risparmio. Cioè, non hanno i soldi. Appena gli succede qualcosa, forano una gomma, sono già in crisi. Non hanno i soldi per pagare neanche il meccanico. Ma provate a chiedere a un americano se vi dà $5,000 in contanti. Adesso, dice, mi hanno rapito... Non li hanno. Allora, il problema è che adesso, però... Trump dice, riportiamo negli Stati Uniti la produzione. Riportiamo la produzione. Allora cosa dice? Metto alla Volkswagen, prendo un nome a caso, o alla Stellantis, al gruppo Fiat, metto un dazio del 20% sulla produzione delle auto. Se tu vuoi vendere in America e non vuoi pagare i dazi, vieni qua a fare le macchine. E quindi Stellantis, per dire, adesso dice, ok, investo $5 miliardi in America per aprire gli stabilimenti e produrre la Jeep. Le auto lì. No? Le faccio lì. Però reindustrializzare tutto è un casino, cioè non è un'operazione che dura un anno e mezzo. Cioè è un'operazione che magari... Non solo, richiede 20 anni, che ne so. Non solo, perché poi tu compri l'iniezione dalla Germania, i cuscinetti a sfera dalla Svezia, eccetera eccetera, e ti arrivano i dazi, per cui anche, voglio dire, è una semplificazione, una banalizzazione. Non puoi fare sta roba qua, non ce la fai, cioè è un'operazione quasi impossibile. Allora a me va bene che tu dici, ragazzi, quando è arrivato il Covid ci siamo accorti che i farmaci dovevamo comprarli dall'India e dalla Cina. Siccome si è bloccato tutto, non avevamo i farmaci, allora mi va bene che li facciamo qua. Quella roba lì può anche starci. I microprocessori non li possiamo fare a Taiwan, perché se i cinesi occupano Taiwan, i microprocessori non li abbiamo più. E tutta sta roba qui, la tecnologia, siamo fuori. Portiamo qua i microprocessori. E quella roba lì può anche farla. Ma il manifatturiero, la sedia, la maglia, ma come fai a farla? Cosa ti viene a costare? Parte un'inflazione della miseria. È impossibile fare quell'operazione. Ma è un pretesto. La storia dei dazi serve ad altro, non serve per la reindustria. E poi non creerà neanche occupazione. Sapete perché? Automazione. Perché c'è il boom dell'automazione. Cioè, sapete i fatturati delle società che fanno la robotica cosa fanno? Cioè non riescono a stare dietro agli ordinativi. Cioè è tutto automatizzato, quindi non riusciranno a creare occupazione facendo così. Loro credono di farlo, ma non riusciranno. Ci sarà qualche miglioramento, ma sicuramente questi effetti strutturali non riusciranno a invertirli. Allora, qual è stato il grande errore col senno di poi? Del casino nel quale ci siamo infilati. E io su queste cose qui ho anche dibattuto con dei docenti universitari proprio su questi punti qua. Perché quando noi abbiamo avuto la crisi del 2008 o del 2001, abbiamo cominciato a parlare di reflazionare l'economia. Cosa vuol dire reflazionare l'economia? Le banche centrali hanno cominciato a stampare moneta, no? E hanno portato i tassi a zero, hanno creato, diciamo, un contesto finanziario che ha fatto esplodere il debito e tutte quelle cose che vi ho fatto vedere all'inizio. E io mi sono sempre chiesto, ma perché facciamo queste cose? Cioè, non servono queste robe qua. Ma io l'ho sempre detto, che non servivano queste cose. Io sono stato nel settore finanziario, sono stato trattato come uno che non capiva nulla, perché dicevo, come, guarda, stampi moneta, l'economia riprende. Ma no, non riprende niente, riprende solo la borsa, l'economia rimane lì. E i monetaristi, la corrente degli economisti che ha infarcito le banche centrali di tutto il mondo, in particolare in Europa, Draghi, e negli Stati Uniti, Bernanke, la Yellen, tutta sta gente qua, dicevano che stampando moneta l'economia avrebbe ripreso, perché c'era il rischio della deflazione. Quindi quando c'è il rischio della deflazione non volevano cadere nel 29, quindi dobbiamo dare soldi a tutti. Solo che quei soldi lì sono andati solo alla finanza, come avete visto, no? E quindi io un giorno ho detto, ma scusate, ma abbiamo fatto una cazzata. Cioè, abbiamo stampato moneta per 14 anni, mo siamo nelle canne di nuovo, per far partire un ciclo dell'economia che era semplicissimo farlo partire in un altro modo, aumentando i salari. Tu vuoi far ripartire l'economia e la domanda interna, i consumi? Riduci le imposte sui salari reali. La gente ha più soldi in tasca, spende, l'economia riparte. Perché devi stampare moneta? Quella è la roba che serve alla banca per fare speculazione finanziaria. E ci infila in un casino. E a un certo punto un professore dell'università della LUISS mi ha scritto, come dire, perché non ci abbiamo pensato? Cioè, non so, è la cosa più banale. Perché non ci abbiamo pensato? Perché la lobby finanziaria non voleva questo. La lobby finanziaria voleva: tu fai debito e non rompere le palle, perché sul debito che fai per consumare io guadagno il 25%. Ok? E poi stampiamo moneta, non ti preoccupare che in qualche modo ne usciamo. Non ne siamo usciti. Ci abbiamo un casino da gestire che non sappiamo neanche più come fare. E non c'è nessuno in questo momento in grado di farlo. Non c'è nessuno in grado di gestire questa situazione. Per quello che la situazione continuerà a peggiorare, i dati che vi diranno che l'economia va bene saranno costantemente come quelli cinesi. Cioè i cinesi non credono che la loro economia cresce al 5, stanno zitti. E finiremo tutti come i cinesi noi. Purtroppo, perché gli economisti di Wall Street non diranno niente di tutta sta roba qua che vi ho raccontato io. Non vi diranno mai niente di tutta sta roba qua, perché non si deve sapere. No, si deve sapere perché loro devono continuare il loro stile di vita. E poi... adesso che cosa sta succedendo? Che in questi, proprio in questi giorni, alcuni economisti, un economista di Goldman Sachs e un economista di Morgan Stanley, hanno cominciato a manifestare dubbi sulla tenuta del sistema. È intervenuta immediatamente la Casa Bianca per farli licenziare. Trump ha telefonato alla Goldman Sachs e ha detto: chi è quello che ha scritto questa roba? Quello va licenziato. Come la responsabile delle statistiche dell'occupazione. Esatto. Allora, voi capite che in questo momento in America chi sa deve non tacere. Può parlare, perché viene licenziato. Allora, io è 3 anni che dico che i dati macroeconomici americani sono falsi. All'inizio mi prendevano in giro. Mi dicevano, già, perché tu... non capisci come mai va tutto bene e allora dici che l'economia e i dati sono falsi. Poi viene fuori che Trump licenzia il capo dell'amministrazione, dell'ufficio di statistica, perché pubblicava dati sul mercato del lavoro che non gli andavano bene. Gli ho detto, ragazzi, non prendiamoci in giro. Sono 2 anni che l'amministrazione Biden è dal 2023 che pubblica dati sul mercato del lavoro falsi. perché tu mi dici che ogni mese crei 250.000 posti di lavoro al mese, che è una cifra ragguardevole. Non c'è nessuna economia nel mondo che produce 250.000 posti di lavoro al mese. E poi dopo un anno che mi dici che fai questo, che produci 250.000, dopo un anno rivedi e dici: ah, ci siamo sbagliati, non era vero. E questo me l'hai fatto nel 2022, me l'hai fatto nel 2023 e adesso con Trump anche nel 2024. Ogni anno le statistiche venivano riviste e ci dicevano: ah, ci siamo sbagliati, non è vero, i posti di lavoro creati erano zero. Allora, se tu mi dici che ti sei sbagliato del 10%, ci credo, ma se tu mi dici che tutte le volte per 3 anni di fila ti sbagli del 100%, mi stai prendendo per il culo, giusto? Quindi, che cosa è successo? Siccome il capo dell'ufficio di statistica è stato nominato da Biden, quando è arrivato Trump ha detto: beh, non tarocchiamo più i dati adesso, facciamo uscire quelli veri, giusto? Perché io sono democratico, il presidente è repubblicano, faccio vedere che i numeri non vanno bene. Giustamente Trump si è incazzato. Perché dice: come, avete taroccato fino a ieri, adesso che ci sono io non taroccate più? Licenziata per giusta causa, perché chi sa la storia sa che è andata così. Adesso non trovano nessuno che però vuole andare lì a fare quel lavoro, perché lo sa. La stessa cosa, guardate, che succede in Inghilterra. In Inghilterra è da 2 anni che pubblicano i dati sul mercato del lavoro e sull'economia falsi. A un certo punto entra in sciopero inspiegabilmente l'ufficio di statistica del governo inglese. Sciopero. Perché scioperate? Non siete contenti dello stipendio? No. Scioperiamo perché abbiamo pressioni dalla politica a pubblicare dati non veri, gonfiati. Come? È venuto fuori un casino. È caduto il governo. La Banca d'Inghilterra dice: ma come, da quanto tempo ci dati i dati falsi? Fantastico. Cioè, hai capito come siamo messi? Siamo messi così. Perché siamo messi così? Siamo messi così perché quando una società va male, arrivi anche a questi livelli qui per cercare di tenerla in piedi, no? A falsificare i dati per far vedere che va tutto bene. Però, ecco, cioè, tenete bene in mente queste cose che vi ho detto, perché queste cose qui che io vi ho detto, non dico che sono l'unico che le dice, ma ho fatto diversi convegni negli ultimi anni su queste cose qua, perché non c'è nessuno che parla di queste cose. Quindi si parte, per riassumere, perché quando andate via di qui vi rimane bello stampato in mente come siamo messi. Come eravamo nel 2008, come eravamo nel 2008, come siamo adesso, perché l'economia non va, nonostante spendiamo un pacco di soldi per fare gli interventi pubblici, perché non va, come sarebbe andata senza gli interventi pubblici? Guarda là, mancherebbero tutti quei soldi lì. Quindi come il debito che sale, come è salito il debito negli ultimi anni, totale, pubblico e privato, come è messa l'America nei confronti del resto del mondo, l'economia che non va, nonostante tutti gli interventi e l'economia che cresce al 3%, la gente va in default, che non è proprio compatibile con una crescita al 3%, come stanno andando i redditi, come sta andando il debito, siccome i redditi vanno giù, la gente deve indebitarsi per vivere e per tenere in piedi il sistema e i consumi. In California, dicevo a Maurizio, nel 2024 sono falliti 300.000 individui che hanno dichiarato fallimento, la stragrande maggioranza per motivi di perché non riuscivano a pagare i conti della salute, sì. Quindi di medicine, interventi, cose del genere. 300.000 solo in California, quindi la California sono 30 e passa milioni, quindi è uno su 100. Però l'idea è un macro numero, 300.000 persone che dichiarano fallimento personale perché non riescono a trovare, esatto. È un dato mostruoso, ma è il risultato di tutto. È il risultato di questa cosa, che il debito sul reddito del nucleo familiare è oggi al 170% rispetto al 115% della crisi del 2008. Quindi come incidono le entrate fiscali delle società americane sulle entrate totali del governo e perché non si possono toccare quelle cose lì, vi ho anche detto perché non si possono toccare, giusto? E dove ci siamo infilati per tenere in piedi il sistema, dove l'economia americana è diventata un paese socialista sostanzialmente, no? Che noi siamo il centro del capitalismo mondiale, no? Siete come l'Unione Sovietica, capitalismo di Stato, cioè, quindi ecco, questo è un po' il riassunto della situazione. Quindi ho cercato di farvi capire come siamo messi. Domande, contributi? L'economia cinese è andata in crisi nel 2015. I cinesi hanno cominciato lì a fare interventi come il governo americano. Nel 2016 c'è stata una massiccia svalutazione della divisa cinese, fuga di capitali dalla Cina, e lì è scoppiata la bolla immobiliare. Loro hanno cercato di puntellare, esattamente come stanno facendo gli americani, per un po' di anni hanno continuato a nascondere i buchi che avevano sul settore immobiliare, l'esposizione delle banche, gente che non pagava, via dicendo. Quando è arrivato il Covid hanno fatto esplodere tutto, è entrata la crisi del real estate cinese e la Cina sta andando abbastanza male come economia. Allora, non è vero che cresce al 5, le stime che abbiamo noi più realistiche potrebbero essere intorno a un 2-2,5%, esattamente la metà. Hanno un'elevata disoccupazione in tutto il settore giovanile, cioè la disoccupazione tra i ragazzi giovani fino a 20 anni è intorno al 17%, che per i cinesi è una cosa un po' scomoda, no? Per un paese gestito centralmente dal Partito Comunista, è una gravissima situazione questa qua. Però, per dire, no, che i cinesi sono andati in crisi pur avendo un totale controllo dell'economia. Lo Stato poteva permettersi di pubblicare le statistiche che voleva, intervenire come voleva, coprire i buchi come voleva, la trasparenza dei mercati cinesi non è come quella americana e via dicendo, eppure sono andati in crisi lo stesso, no? Per dire. Adesso cosa stanno facendo? Vabbè, si è aperto lo scontro commerciale, gli americani hanno cercato di farli saltare. A un certo punto il governo Biden tra il 2021 e il 2023 ha minacciato tutte le grandi banche americane di togliere gli investimenti dalla Cina pena un'introduzione di sanzioni sulle singole banche americane. Siccome molti risparmi americani erano andati in Cina per investire in borsa e c'era un grande flusso di capitali che andava verso la Cina, le aziende americane investivano tantissimo in Cina, l'amministrazione Biden ha tolto praticamente tutto questo flusso di capitali, ha procurato un crollo della borsa cinese per cercare di mettere in crisi il sistema. Quindi i cinesi, però, che cosa è successo? Che questi flussi di capitale, allora i flussi di capitale che andavano a investire sull'economia cinese, che arrivavano dall'Occidente, si sono fermati. Non entra più un tollino per investire, aprire stabilimenti in Cina. Tutto fermo. E i flussi finanziari, invece, quelli che alimentavano la crescita del mercato azionario cinese, occidentali, sono venuti via, perché avevano paura di sanzioni. E quindi il mercato cinese è crollato. Però il problema è che il mercato cinese è crollato, quello di Hong Kong. Perché, non so se voi lo sapete, i cinesi hanno due mercati. Il mercato di Shanghai, dove possono comprare solo i cinesi, e il mercato di Hong Kong, dove sono quotati titoli cinesi che puoi comprare solo tu, straniero. Quindi il mercato di Hong Kong è crollato, ma il crollo del mercato di Hong Kong ha fatto perdere i soldi solo a noi. Perché i titoli quotati a Shanghai invece sono rimasti dove erano. Per cui i cinesi, hai capito, se ne sono altamente fregati. Dopodiché è partita la guerra commerciale 2, dazi 100%, 40% e via dicendo. I cinesi stanno reggendo benissimo questo scontro, perché hanno un grande spazio di miglioramento della gestione dell'economia. Mentre gli americani sono arrivati alla canna del gas, come si dice, la Cina non ha ancora stimolato i consumi interni. Sta ripulendo il sistema dall'eccesso di speculazione sul settore immobiliare e non hanno i problemi, cioè sicuramente hanno dei problemi sociali, però vai a protestare in Cina se non ti va bene come va l'economia. Finisci, hai capito, in carcere e sparisci. Per cui i cinesi se ne fregano altamente di come sta andando la situazione, fanno degli interventi. Perché stanno facendo così? Perché gli americani dicono: se voi non rilanciate l'economia, non aprite il vostro mercato, non togliete le sovvenzioni, noi vi mettiamo i dazi per mettervi in crisi, no? Però i cinesi dicono agli americani: tu sei messo così? Perché io devo far crescere la mia economia e fare la locomotiva della crescita mondiale? Anch'io ho i miei problemi. Per cui io non faccio niente di quello che mi chiedi. Vediamo come va a finire. I cinesi aspettano il botto degli americani, per intenderci. La strategia è quella lì. Per cui gli americani ti chiedono: apri la tua economia, togli determinate cose che impediscono l'ingresso, fai un mercato libero capitalistico, diciamo, come noi. E i cinesi, Xi Jinping dice: col cavolo che io mi infilo in un casino come vi siete infilati voi con le bolle speculative, speculazione finanziaria, qua queste cose non si fanno. Quindi i cinesi stanno andando rafforzando il capitalismo di Stato e tengono una posizione contro la politica americana perché aspettano il botto degli Stati Uniti. E loro stanno reggendo. Adesso hanno messo l'embargo all'esportazione delle terre rare, questi minerali. E quella è una situazione molto, molto complicata, perché Trump infatti è subito andato su tutte le furie, come avete letto sui giornali questi giorni, perché questi materiali sono quelli che ti consentono di costruire tutto quello che è tecnologia. Cioè tu i semiconduttori dell'Nvidia, se non hai quei materiali lì, non li fai. Magari ci manca un granellino per creare una connessione tra un chip e un altro, ma se tu non ce l'hai, il chip non funziona. Tutto quello che è armamenti militari, tutto quello che è touchscreen, tutto quello che abbiamo nelle nostre case, dipende, tutte le automobili elettriche, le pale eoliche, i pannelli solari, se non hai quei materiali lì non fai niente. Quindi gli americani sono andati su tutte le furie. E la Cina dice: ma sai qual è la novità? E io devo mettere un limite all'export di sta cosa per sicurezza nazionale. Che è quella che come poi dice Trump. No? Esatto, che invoca sempre. Quindi gli prendono in giro. E adesso lì è un casino, questa roba qua, perché loro sostanzialmente hanno imposto questa cosa, e quando i cinesi mettono una cosa non fanno come Trump che poi la tolgono, la mettono e rimane lì. Come va a finire sta storia? Allora, c'è un contrasto economico-finanziario, la Cina vuole mettere in crisi l'America, perché l'America ha provato a mettere in crisi la Cina tra il 2020 e il 2024, sotto l'amministrazione Biden, e i cinesi l'hanno capito benissimo. C'è stato un attacco finanziario alla Cina. Adesso i cinesi stanno cercando di fare un attacco finanziario agli Stati Uniti. E cosa stanno facendo? Questo intervento procura un ribasso della borsa e mette in difficoltà le società tecnologiche americane. I cinesi sanno come è messo il sistema finanziario americano, quindi è un gioco al gatto col topo, e da qui non ne usciamo, non avremo mai mega accordi commerciali, sarà molto difficile. Però la Cina ha una strategia, l'America non ce l'ha. Dove vogliono andare i cinesi? Cosa vogliono fare? Loro vogliono vedere come vanno queste relazioni con gli Stati Uniti. Una volta che sarà definito il quadro completo della strategia commerciale americana, quindi i dazi probabilmente rimarranno al 30-40%, cosa del genere, i cinesi, fatto questo, hanno già aperto in Asia una zona di libero scambio con tutti i paesi asiatici, Australia compresa, India compresa, senza dazi. Se tu vendi in Cina, compri con la Cina, dazi zero. Cosa succede? Succede quindi che i cinesi puntano a creare un'area di libero scambio, e l'hanno già fatto, perché questo è un trattato che è stato implementato nel 2018, mi sembra. Quindi quest'area di libero scambio è già lì operativa, dove nel momento in cui l'America si chiude dentro con i dazi, i cinesi aprono verso altri paesi e diventano il punto di riferimento della crescita economica in Asia. Quindi loro hanno una strategia che punta a quello. E poi il passaggio successivo che vuole fare la Cina è, nel momento in cui parte questa integrazione commerciale con tutto il sud-est asiatico, sempre di più, che è già molto avanzata. Oggi l'interscambio commerciale Asia-Cina è il 50%. Tutto lo scambio commerciale tra questi paesi è il 50% tra di loro. L'America conta l'8, il 10%. Mi paghi in renminbi, in valuta cinese. Non usiamo più il dollaro lì dentro. Usiamo la divisa cinese. E quando sarà fatto questa roba qua, per l'America sarà ammazzata, perché tutte le riserve valutarie mondiali sono in Asia. Chi è che finanzia l'America? L'Asia. Ma se io Cina ti dico, no, sai, io non voglio i dollari, mi devi pagare con la mia divisa. Tu Corea, tu Malesia, tu Indonesia, sei obbligato a detenere riserve valutarie con la divisa cinese. Eh beh sì, perché se non c'hai la divisa cinese non mi puoi pagare, quindi te la devi comprare, e per comprarla devi vendere i dollari, e se vendi i dollari vendi anche i titoli di Stato in dollari, giusto? Capite dove vanno a parare questi qua? Comunque è guerra totale, cioè, quindi questa è la strada. Quindi per noi, mondo occidentale, diciamo così, la situazione è particolarmente complicato. Cioè, continuare a pensare che noi abbiamo in mano il pallino che ci ha consentito di dominare geopoliticamente, economicamente tutto il mondo, secondo me è sbagliato. È altamente a rischio continuare a pensare una cosa così. Perché non riusciamo a mantenere. Se noi perdiamo l'Asia, siamo morti. Se gli americani perdono l'Asia, sono morti. Perché perdono tutte le riserve valutarie che tengono in piedi il debito americano. Quindi è una situazione veramente complicata. Noi siamo davanti a degli scenari di grandissimo cambiamento geopolitico e economico-finanziario nel mondo. Cioè non sarà una roba, hai capito, che passa via così. Siamo davanti a una colossale trasformazione dell'economia mondiale. Colossale. Poi io non lo so se questa cosa qui porterà a un conflitto con la Cina militare, non lo so, questo non voglio neanche pensarci, però da un punto di vista macroeconomico vedo queste cose qua. Io studio economia tutti i giorni, geopolitica, e vedo queste cose qua. Le cose che vi ho fatto vedere confermano questi scenari qua. Quindi ecco, questa è un po' la situazione. Non vedi una soluzione non è la parola esatta, una soluzione trumpiana, cioè o americana in questo momento, con una economia, cioè con una politica di rapina delle ricchezze materiali, cioè la ripresa in mano dell'America Latina, il patto con l'Ucraina sono esempi, cioè del tentativo degli Stati Uniti. Non ho dollari, però vi tengo, vi ricatto e prendo, oltre agli accordi sulle armi con l'Unione Europea e la NATO. Non è una via d'uscita che loro tentano di... Sì, loro stanno tentando. Beh, allora, innanzitutto con l'Ucraina c'è questo accordo sulle terre rare per cercare di superare... Sanno benissimo che i cinesi li terranno al guinzaglio col discorso delle terre rare, metteranno in crisi abbastanza, e quindi gli americani stanno cercando delle forniture diverse. Però attenzione, perché per implementare degli investimenti che ci rendano autonomi dalle terre rare cinesi che ci servono a produrre la nostra tecnologia, ci impiegheremo 10 anni. Quindi se tu vai in Ucraina e dici all'Ucraina: adesso abbiamo fatto questo accordo, finisce la guerra, che ne so, arrivano gli americani, sfruttiamo le terre rare, tu per aprire una miniera, metterla in operativo, creare tutta l'infrastruttura che ti fa la raffinazione e che porta il prodotto finito qua dentro, ci impieghi dai 7 ai 10 anni. E io non so se reggiamo 7 o 10 anni con questa situazione qua. L'altro punto, come dicevi, è se questo approccio di ricatto nei confronti delle economie occidentali, dove dici: se tu vuoi vendere in America devi pagarmi dei dazi, no? Che poi pagano loro, perché alla fine paga il governo, il consumatore americano. Anche qui tu fai conto che loro hanno circa 2 trilioni di dollari di deficit all'anno, 2.000 miliardi di dollari di deficit pubblico all'anno. I dazi stanno producendo forse al massimo 70-80 miliardi di dollari di entrate fiscali all'anno. Non ci sono i numeri. Non ci sono i numeri e non abbiamo i tempi, purtroppo. Quindi quello che stanno facendo non è sufficiente. Non è sufficiente in termini di numeri e non abbiamo i tempi, perché noi abbiamo una situazione finanziaria che non regge. E il punto è questo qua. È molto critica la situazione. Per risolvere la cosa, come ho detto, l'unica soluzione dove possono pescare ingenti risorse per rilanciare la situazione e pescare dalle società, però viene giù la borsa e salta tutto. E alla fine torniamo lì, siamo in una specie di trappola e sarà complicato uscirne. È un po', ci siamo infilati in una trappola, ecco, in questi anni. Ah, grazie. La riprego. Bravo Maurizio.